Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata e buon inizio settimana a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Oggi andiamo ad approfondire una notizia che è stata riportata da diversi giornali la scorsa settimana e che solo ad una prima impressione può sembrare distante dalle esigenze quotidiane dei nostri ascoltatori, e così ha stuzzicato la nostra attenzione, visto che ci occupiamo frequentemente di risparmio delle famiglie, tante volte ci siamo occupati anche del tema del risparmio tradito. Questa notizia, la sentenza della Corte di Cassazione che ha condannato la Consob, l'autorità di vigilanza e di controllo dei mercati finanziari, a risarcire alcuni risparmiatori truffati coinvolti in un caso che risale a diverso tempo fa, ai primi anni 90, quando un gruppo di risparmiatori appunto perse tutto ciò che aveva investito su sollecitazione di una SIM, una società di intermediazione immobiliare, la SFA, Società Servizi Finanziari Amministrativi. Questi risparmiatori, circa 3.000 dunque, dovranno essere risarciti. Per dirla in poche parole, alla Consob è stata di fatto attribuita non solo la responsabilità di vigilare sui mercati, ma anche quella di essere un organo di garanzia del risparmio pubblico e privato. Quindi la Cassazione con questa pronuncia ha introdotto un elemento molto rilevante nel discorso relativo alla tutela e alla protezione di chi decide di investire i propri risparmi, in realtà che tocca molte famiglie. Oggi vorremmo ripercorrere quei fatti, capire che portata ha questa sentenza, quali cambiamenti potrà portare per chi già si è trovato coinvolto in un caso del genere, per chi potrà incappare in futuro in una vicenda di risparmio tradito. In generale vedremo se si tratterà realmente, come qualcuno è arrivato a dire, di una vera e propria rivoluzione nell'ambito del risparmio e della sua tutela. Allora oggi con noi i due giornalisti, i due colleghi del Sole 24 Ore che hanno scritto approfonditamente di questo caso, Giovanni Negri, il Sole 24 Ore appunto. Giovanni, ciao. Buongiorno. Della redazione di Norme e Tributi e della redazione di Plus 24, Stefano Elli. Stefano, ciao anche a te. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. E poi abbiamo anche naturalmente un legale che ci dà un po' di conforto questa mattina, l'avvocato Daniele Santosuosso, che è anche docente di diritto commerciale alla Sapienza, titolare dell'omonimo studio legale. Avvocato, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, 800 24 00 24, il numero verde che vi dà l'opportunità di intervenire se volete avere qualche dettaglio in più rispetto a questa importante pronuncia appunto della Cassazione. 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi, oppure se non volete interagire con noi attraverso queste due modalità avete l'opportunità di farlo scrivendoci all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. 30 secondi di borsa prima di cominciare. Questa mattina, come avete già sentito nel giornale radio, la borsa è piuttosto ballerina perché è partita benino, poi si è rafforzata, poi gli indici del vecchio continente hanno riperso tutto. Adesso Parigi e Londra stanno navigando intorno alla parità, così come Piazza Affari, mentre Francoforte perde lo 0,14%. A Piazza Affari le vendite si stanno intensificando sui titoli delle banche popolari. Il Banco Popolare perde il 3,36%, la Popolare di Milano -1,32%. Oggi dovrebbe esserci qualche indicazione in più sull'opportunità o meno che il gruppo proceda con un aumento di capitale, come si vociferava settimana scorsa. Torna a perdere terreno Fiat, -1,31%. Oggi il settore auto è un po' tutto sotto pressione alla notizia dell'aumento di capitale da 5 miliardi di euro che si rende necessario per il gruppo Porsche. Fondiari ancora in calo oggi, ancora un bilancio in negativo, -1,24%. UbiBanca -1,21%. Acquisti invece su Enel Green Power, +1,77%. Mediolanum in rialzo di un punto. Finmeccanica in rialzo di un punto, +0,9% per Azimut, +0,8% per Diasorin e Parmalat. Anche questo titolo ovviamente molto sotto i riflettori da qualche settimana a questa parte. Euro su dollaro 1,4041, il petrolio stamattina viaggiava a $105 al barile, il WTI, il greggio di riferimento americano, il Brent di Londra 115,84, la borsa di Tokyo ha chiuso in flessione dello 0,6% e direi che possiamo tranquillamente lasciare la borsa. Andiamo subito al tema di questa mattina. Allora, ripercorriamo appunto un caso che si è verificato nel nostro paese un bel po' di anni fa e solo oggi la Cassazione, anche se per la verità il procedimento è stato piuttosto lungo ed articolato, stabilisce il diritto di un gruppo di risparmiatori ad essere risarciti, ma che lo debba fare la Consob fa, Giovanni Negri, un certo effetto. Beh, sì, diciamo che la sentenza ha una sua importanza perché consolida, diciamo, un orientamento che vede la Consob responsabile non solo della trasparenza del mercato finanziario, ma anche in riferimento alla tutela del risparmio. È un cambiamento che trova un riscontro anche normativo, perché all'inizio degli anni 90 con una specifica legge sono state ampliate le competenze della Consob a una sorta di servizio di controllo, vigilanza nei confronti delle società di intermediazione immobiliare. La Cassazione precisa che a questo ampliamento delle competenze corrisponde anche un ampliamento della responsabilità della Consob stessa. La rilevanza della questione è anche determinata dal fattore, diciamo così, cronologico, perché la vicenda si verificò ed esplose proprio nel passaggio tra la vecchia e la nuova normativa, a cavallo proprio dell'ampliamento delle nuove competenze attribuite a Consob stessa. E cosa dice oggi la Cassazione? E mi sembra l'aspetto forse da sottolineare maggiormente, che per attribuire una responsabilità a Consob non c'è bisogno di chissà quali sofisticazioni normative, ma basta un ordinario articolo 2043 del Codice Civile. E dico ordinario perché è quello in base al quale anche il cosiddetto, che so, il padre di famiglia risponde per i danni provocati dai figli. In sostanza, quell'articolo che prevede una responsabilità per il danno ingiusto nei confronti di ciascuno di noi. E in questo caso ad essere chiamata a rispondere è stata la Consob stessa. Quindi in linea, diciamo, puramente teorica, poi verificheremo magari anche nel corso della trasmissione come si potrà fare questo, però Consob può essere chiamata a rispondere per un danno ingiusto per la mancata vigilanza sull'attività di raccolta del risparmio effettuata dalle società di intermediazione. Questo mi sembra un aspetto rilevante e che dovrebbe interessare un po' tanti risparmiatori, direi. Infatti, allora, a dover essere indennizzato, come specificavamo all'inizio, un gruppo di risparmiatori che perse tutto quanto investito su sollecitazione di questa SFA, società servizi finanziari amministrativi, una vicenda appunto che coinvolse fra il 90 e il 92 3.000 risparmiatori. Peraltro nei giorni scorsi, proprio alla luce di questa pronuncia della Cassazione, la Consob ha precisato di aver già provveduto fra il 2005 e il 2007 al risarcimento di 123 di questi 3.000 risparmiatori coinvolti nel crack per un ammontare di circa 5 milioni di euro. Stefano, Elli, tu che l'hai ricostruito per il Sole 24 Ore, esattamente come operava questa società finanziaria, questa SIM anzi? Prima di dire come operava, secondo me vale la pena contestualizzare quello che è successo in questi ultimi vent'anni. Allora, il gennaio del 1991 è stata una data abbastanza epocale, perché si è modificata la legge sulla tutela del risparmio e sul risparmio. Prima di allora si erano verificati a cavallo tra l'85 e l'89 numerosi casi di crack definiti e battezzati dell'atipico. Mi viene in mente l'Istituto Fiduciario Lombardo di Achille Cutrera, l'Europrogram di Orazio Bagnasco. E allora si venne a creare l'esigenza di rimodellare l'apparato normativo che appunto tutelava. Venne appunto inadeguato in sostanza. Esattamente. Venne istituita la legge cosiddetta 191, vennero istituite le società di intermediazione immobiliare e vi fu una fase di passaggio all'interno della quale molte delle società che agivano come commissionarie di borsa dovettero trasformarsi in società di intermediazione immobiliare, sottoponendosi appunto al vaglio della Commissione Nazionale di Controllo. Tra queste ve ne furono tre che vennero istituite. La prima era appunto la SFA, la seconda era la Girardi SIM e la terza era la Zoppi SIM. Entrambe facevano raccolta di risparmio con svariate modalità e modulazioni, certificati di partecipazione, titoli azionari, anche di società terze, e in buona sostanza agivano con una rete di promotori finanziari che fino a quel momento non esisteva, quindi la definizione anche soltanto di promotore finanziario non esisteva, non era previsto l'albo che venne istituito appunto con la 191. E quindi la Consob si trovò in un periodo relativamente breve di tempo a dover esaminare numerosi dossier Tra questi appunto questi di società che in realtà avevano già dato segni di particolare instabilità. Di non avere grandi requisiti insomma patrimoniali per operare secondo... Alcune dei di queste società erano state oltretutto già ispezionate, già verificate dagli ispettori e degli uomini della Consob, che ne avevano asseverato diciamo in qualche caso la poca solvibilità. Ci fu un caso particolare che fu la Zoppisim, che venne ispezionata da Francesco Bianca e dai suoi uomini, che addirittura diede conto di una situazione di particolare fragilità dei conti. Che portò tra l'altro ad un crack da 100 miliardi che coinvolse 1000 risparmiatori. Esattamente. Sfas Commissionaria, Girardissima e Zoppisim furono tutte e tre società che crollarono pochissimo tempo dopo essere state autorizzate ed essere state ammesse all'albo delle società di intermediazione immobiliare. Questo è il caso. Come siamo arrivati dunque alla pronuncia, magari Giovanni, qua aiutami tu, poi Avvocato Santosuossola comincia a coinvolgere nella seconda parte della trasmissione. Come siamo arrivati ad oggi alla pronuncia della Cassazione? In questi anni chi ha denunciato che cosa? Come mai siamo arrivati appunto alla decisione della Cassazione? Beh, si è arrivati in Cassazione, che rappresenta il terzo grado di giudizio, in realtà dopo che c'erano state due pronunce del Tribunale e della Corte d'Appello di Roma, in larga parte favorevoli comunque alla tesi dei risparmiatori. Qui il ricorso era stato presentato cumulativamente da una pluralità di risparmiatori. Consob ha sempre impugnato le pronunce, prima in appello e poi adesso in Cassazione, evidentemente ritenendo che comunque i controlli che dovevano essere svolti dalla Commissione non dovevano essere di natura sostanziale, ma quasi esclusivamente di natura formale. Diciamo che questo è stato uno degli aspetti fondamentali della tesi difensiva di Consob. Tesi che però è stata respinta dalla Cassazione, che ha affermato che comunque anche in quella fase delicata di passaggio che ricordava più analiticamente Stefano nel suo intervento tra il 90 e il 91, Consob comunque doveva essere chiamata a svolgere dei controlli molto più incisivi di quelli che effettivamente sono stati fatti, e questo è un altro aspetto secondo me significativo. E infatti, allora adesso ci dobbiamo fermare perché abbiamo già la prima pausa. Vi leggo intanto alcuni dei messaggi che sono arrivati. Un ascoltatore ci scrive appunto: sono risparmiatore che ha perso circa 100 milioni nel 93 con la Girardissim di Marco Bossio. Per questo caso c'è qualche novità? La novità è assolutamente attinente appunto al tema di questa mattina, l'abbiamo già citata, e poi chiaramente guarda oltre. Io e alcuni amici siamo rimasti coinvolti nel crack di Mariella Burani, abbiamo a questo punto qualche speranza di recuperare qualcosa, così come i danneggiati Parmalat, ci chiede Gerardo, potranno adesso avvalersi dei presupposti creati da questa sentenza. Tutte belle domande che ci faremo dopo la nostra prima pausa, tra poco. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, la Consob è stata chiamata a risarcire un gruppo di risparmiatori traditi, lo ha deciso la Consob con una sentenza. Vi dico anche il numero, così almeno verrà andate a ricercare se siete interessati. La numero 6681 è stata depositata mercoledì scorso dalla terza sezione civile. La Cassazione ha respinto un ricorso che la Consob aveva presentato contro una condanna che le era già stata inflitta a risarcimento dei danni nel 2007 dalla Corte d'Appello di Roma. Il caso era quello di un gruppo di risparmiatori che aveva perso tutto quanto investito su sollecitazione della SFA, Società Servizi Finanziari Amministrativi, una società che aveva fatto sparire le quote versate da almeno 3.000 risparmiatori, e una società che non era neanche autorizzata alla raccolta dei risparmi. Una vicenda che coinvolse appunto 3.000 risparmiatori fra il 90 e il 92. Allora, questa pronuncia della Cassazione che portata a, che conseguenze potrebbe avere? Stamattina ci stiamo interrogando su questo con due colleghi del Sole 24 Ore, Stefano Elli e Giovanni Negri, e adesso invece vorrei chiedere insomma in termini magari speriamo non troppo giuridichesi all'avvocato Daniele Santosuosso effettivamente che tipo di precedente crea una decisione di questo tipo. Avvocato, appunto perché, come già ha avuto modo di sentire nella prima parte di trasmissione, a questo punto si aprono le speranze per molti altri risparmiatori rimasti coinvolti negli altri clamorosi crack che negli anni si sono susseguiti nel nostro paese. Intanto buongiorno di nuovo. Buongiorno. Che cosa pensa, appunto? Quali conseguenze? Beh, la sentenza è molto rilevante a mio avviso, perché conferma l'apertura su vasta scala ad azioni di responsabilità civile nei confronti della Consob come organo, come è stato già detto prima, di vigilanza ma anche di garanzia del risparmio, sol che si dimostrino i presupposti dell'azione di responsabilità, della responsabilità civile cosiddetta aquiliana ai sensi dell'articolo 2043, la responsabilità extracontrattuale. In altri termini, se si riesce a dimostrare la colpa della Consob, il dolo ritengo più difficile, comunque uno dei presupposti dell'azione di responsabilità, la colpa della Consob nel non aver adeguatamente vigilato in relazione ai suoi doveri specifici di vigilanza, di controllo sul mercato, in questo caso sugli intermediari, e si dimostri il nesso di causalità, e cioè che dalla violazione dei suoi obblighi, dei suoi doveri di controllo, siano derivati i danni ai risparmiatori, abbiamo dimostrato praticamente la responsabilità della Consob. L'entità del danno poi sarà una questione da verificare caso per caso. Certo, in alcune ipotesi non sarà facilissimo dimostrare che sussista la colpa della Consob, ma quando è evidente il comportamento antigiuridico, in questo caso per esempio la società in questione apparteneva ad un gruppo che operava senza autorizzazioni, quindi al di là dei meccanismi tecnici con i quali si è frodato il mercato, su questo la Consob doveva allertarsi. Ritengo che molte azioni di responsabilità si possano intentare anche vittoriosamente e sottolineo non soltanto con riferimento a comportamenti negativi antigiuridici degli intermediari, ma anche degli emittenti, cioè delle società quotate, perché la Consob ha molti poteri di controllo, di vigilanza sulle società quotate. Basti pensare al prospetto con riferimento agli aumenti di capitale, per esempio alla sollecitazione del pubblico risparmio, basti pensare ai reati che si possono compiere con riferimento alla manipolazione del mercato e all'abuso di informazioni privilegiate. Ci sono dei profili civilistici che possono derivare dal compimento di questi reati, al compimento dei quali si possono verificare dei danni. Certo, ora avvocato, potrebbe verificarsi l'esistenza di una società non autorizzata alla raccolta del risparmio, appunto come è accaduto con la SFA, con la Girardi Siume, con le altre citate dai colleghi del Sole 24 Ore, quindi almeno da questo punto di vista siamo più tranquilli rispetto alla fine degli anni 90? Sì, si possono verificare dei casi di omesso controllo di fronte ad una inadeguatezza, incongruità patrimoniale, mancanza di requisiti di onorabilità, professionalità dei dirigenti di queste società abilitate, eccetera, che espongono la Consob alla responsabilità. Secondo me siamo tendenzialmente più tranquilli, ma si possono ancora verificare dei casi di questo genere. Allora, andrei a cominciare a rispondere un po' alle richieste dei nostri ascoltatori. Quando prima ho citato per esempio il crack più recente di Mariella Burani, subito Stefano Elli mi ha alzato un foglio e dice: guarda, questo ascoltatore una risposta possiamo darla, anche se non abbiamo a che fare, Stefano, con una SIM, abbiamo a che fare appunto con un'importante società quotata in borsa, appunto operante nel settore della moda, però chiaramente in ogni caso è interessante capire se anche su questo caso si può in qualche maniera attivare una considerazione sul fatto che la Consob non abbia adeguatamente vigilato sull'attività di questo gruppo. No, qui il concetto è diverso, nel senso che è in corso un processo a Milano presso la terza sezione penale presieduta da Piero Gamacchio, in cui proprio di recente, mi sembra due udienze fa, sono state ammesse alla Costituzione di parte civile 130 investitori, cioè soci, azionisti, quindi non sottoscrittori di obbligazioni. La differenza tra investitori e creditori in questa fattispecie è particolare, nel senso che si riteneva fino a poco tempo fa, e comunque viene sempre sollevata dalla difesa degli imputati, l'eccezione sul fatto che l'investitore, assumendosi un rischio di impresa e quindi un rischio di capitale, possa o non possa essere insinuarsi nel passivo penale, in questo caso nella Costituzione di parte civile. L'orientamento dei tribunali in questo caso e in altri casi analoghi sembra essere proprio questo, cioè quello di ammettere l'investitore, anche i titoli azionari, nella costituzione di parte civile. E quindi Craig Burani non vede la Consob in questo caso come diciamo chiamata in correità, ma casomai è una parte lesa in questa vicenda. Addirittura. Allora, che cosa avrebbe potuto fare Consob in quel frangente, Giovanni Negri? Abbiamo più volte appunto richiamato l'attenzione sulla portata di questa sentenza appunto della Cassazione, che fornisce ai risparmiatori proprio una sorta di vero scudo protettivo per pararsi anche dai colpi dalle finanziarie truffaldine. Ma in quel frangente esattamente appunto la Consob, la Cassazione lo stabilisce anche, lo dice anche nella sua sentenza? Non in maniera estremamente dettagliata, però precisa secondo me con sufficiente chiarezza che l'attività dispiegata da Consob in quel particolare frangente è stata caratterizzata, certo, non dal dolo, che estremamente lo ricordava l'avvocato Saltososo, difficile da provare e devo dire poi anche nel se caso se anche venisse dimostrato un caso la Consob, allora tanto vale cancellarla, cioè, cioè nel caso poi di un'autorità di vigilanza e controllo di questa portata, insomma, sarebbe estremamente sorprendente e tanto più preoccupante. Però un'attività caratterizzata diciamo da una eccessiva negligenza e trascuratezza, insomma, e il trincerarsi dietro l'apparente formalità dei controlli che secondo Consob andavano invece effettuati non è, a parere della Cassazione, sostenibile nemmeno sul piano civile, perché su questo piano stiamo, perché naturalmente poi la vicenda delle società finanziarie di cui discutiamo ha sicuramente avuto un versante penale che ha avuto tutto il suo iter, il suo percorso, nel quale magari ci sono state anche delle costituzioni di parte civile, cioè quindi nel quale dei risparmiatori hanno chiesto un risarcimento. Però qui è sul versante civile, Cassazione dice potevate fare meglio, quel tipo di controlli potevate farli in maniera molto più incisiva di quello che è stato fatto, e soprattutto non li dovevate poi circoscrivere solo diciamo ad una fase preliminare all'autorizzazione, ma anche in itinere, insomma, successiva. Cioè non ci si può disinteressare completamente di quello che avviene successivamente. Ecco, questo mi sembra un ulteriore aspetto rilevante. Volevo rivolgere una raccomandazione ai nostri ascoltatori, perché ci state chiamando in tanti e poi non rispondete più alle telefonate quando vi richiamiamo per andare in onda. Stamattina sta verificandosi anche questa cosa piuttosto divertente, per cui appunto chiamateci, raccontate il vostro caso, poi spegnete il telefono. Veramente adesso 10 su 10 stamattina mi sembrano incredibili. Detto questo, avvocato Saltososo, vorrei ritornare da lei per chiederle se è mai accaduto altrove, in altri ordinamenti, in altri paesi, che un'autorità di vigilanza sul mercato sia stata condannata a risarcire dei risparmiatori, magari dei crack clamorosi. Abbiamo il merito di come dire, averli vissuti solamente noi in Italia, ma altrove le risulta, anche se per esempio negli Stati Uniti hanno avuto l'incredibile crack Madoff, una truffa colossale, però ecco, altrove è mai accaduto che un'autorità di vigilanza sia stata addirittura condannata a risarcimento di singoli risparmiatori? Dunque, sul piano civilistico le altre autorità garantiscono zone di maggiore immunità rispetto all'Italia, che con la sentenza di oggi conferma di essere all'avanguardia. In particolare, per esempio, in Gran Bretagna c'è stato un famoso caso contro la Banca d'Inghilterra, aver messo i controlli di vigilanza relativi alla Bank of Credit and Commerce International, e ci fu la condanna da parte dei giudici di merito, però poi la House of Lords ha ribadito che occorre il dolo e quindi non basta la colpa, come in Germania, dove in realtà è affermata proprio la responsabilità dell'autorità di vigilanza, salvo che non si violino intenzionalmente doveri di diligenza specifici nei confronti di determinati individui. Quindi, a parte casi molto eccezionali, un caso come il nostro, a quanto mi risulta, non si è verificato. Diciamo che vi sono dei profili di maggiore, come si dice, accountability, cioè responsabilità politica e morale delle autorità di vigilanza, piuttosto che invece casi di responsabilità civile ai sensi dell'articolo 2043, quindi extracontrattuale, come lo abbiamo avuto noi. Voglio anche sottolineare che, sempre con riguardo al discorso degli emittenti, i poteri della Consob ispettivi e informativi sono cresciuti nel tempo e questo può dar luogo a maggiore facilità di omissioni. Si pensi, ripeto ancora una volta, a manipolazione del mercato e abuso di informazioni privilegiate, quello che era l'insider trading di oggi. Se la Consob omette di compiere tutti gli atti necessari all'accertamento di queste violazioni, di richiedere notizie, registrazioni telefoniche, audizioni personali, eccetera, e questi casi sono sempre più frequenti a livello penalistico, a livello civilistico l'aver perso per esempio soldi per un investimento derivante, se questa perdita deriva da questi reati, può a mio avviso fondare azioni di responsabilità civile vittoriose. Allora, 800 24 00 24, continuo ancora a ridarvi il nostro numero verde per intervenire, poi magari rispondete anche alla nostra sollecitazione. Quello che adesso mi interesserebbe capire, dopo i suggerimenti per chi è in viaggio, è come verrà quantificato anche questo risarcimento, perché chiaramente si tratta di investimenti effettuati una ventina d'anni fa, pertanto è molto interessante capire anche, come dire, il ricalcolo di questo denaro oggi, quanto valgono appunto gli investimenti del passato e soprattutto se sarà una sorta di risarcimento automatico a chi si devono rivolgere anche questi risparmiatori, appunto, che sono rimasti gabbati in questa vicenda e che oggi appunto trovano legittimo risarcimento di tutto. A tra poco. Ultima parte della nostra trasmissione. Questa mattina siamo ritornati indietro negli anni 90, quando oltre 3.000 risparmiatori rimasero coinvolti in un crack finanziario piuttosto importante, quello di una SIM, e oggi per quel caso la Consob è stata condannata da parte della Cassazione a risarcire questi risparmiatori, perché appunto la Consob, ha detto la Cassazione, non ha vigilato adeguatamente sui requisiti anche patrimoniali di queste SIM, che non dovevano assolutamente essere autorizzate alla raccolta del risparmio, invece in virtù appunto di controlli inadeguati. Giovanni Negri, io sto cercando proprio di arrampicarmi sugli specchi per essere più chiara possibile con i nostri ascoltatori. Di fatto, appunto, proprio per questa mancanza di vigilanza efficace, queste SIM sono state autorizzate ad operare, dopodiché è andata appunto come è andata. Quello che mi chiedo adesso è come, se avete avuto modo di indagare anche su questi aspetti, come verranno risarciti questi risparmiatori. Avvocato Santosuosso, lei se lo ha chiesto magari anche qualche cliente che si trova appunto invischiato in queste situazioni, ci sarà un risarcimento automatico? La Consob ha detto che già qualche risarcimento lo ha operato tra il 2005 e il 2007. Bisognerà che i risparmiatori si attivino da soli, verranno ricontattati, perché magari nel giro degli ultimi 20 anni qualcuno potrebbe anche non esserci più. Le domande sono molte. Si devono attivare, naturalmente la sentenza offre loro titolo per poter ottenere l'ingiunzione di pagamento da parte della Consob, la quale vorrei sottolineare che ha limitate forme di finanziamento, quindi a mitigare un po', diciamo, quello che può essere l'effetto che questa sentenza può comportare. Si deve dire che le azioni comunque, se arriveranno, dovranno essere ben fondate, altrimenti si rischia o l'eccesso delle azioni o di vedere la Consob come quello che viene definita la tasca profonda del risparmio italiano, e il che praticamente non potrebbe essere possibile. Stefano Elli, volevo ritornare da te perché non abbiamo risposto ad un ascoltatore che ci ha scritto relativamente, anche se tu poi ci hai ricostruito il caso, oltre che della SFA commissionaria, anche quello di Girardi Sim e Zoppi Sim. Esattamente il punto su Girardi Sim invece qual è? Sulla base di questa decisione della Cassazione, secondo te gli risparmiatori coinvolti in questo crack, 800 investitori coinvolti in un crack da 40 miliardi di lire, perché ancora risaliamo appunto agli anni 90, potrebbero far leva sulla sentenza della Cassazione anche loro per rivendicare un eventuale risarcimento della Consob? Io suggerisco di contattare il sito dell'avvocatessa che ha seguito, l'avvocatessa di Roma che ha seguito il caso, che si chiama Paola Pampana, www.pampana.it, e chiedere aggiornamenti della situazione, perché a mio parere se uno non si è mosso sino a questo momento viene difficile pensare che possa ottenere qualche cosa oggi. Per un'eventuale prescrizione per che cosa? Sono passati 20 anni dal crack, insomma, se uno non si è mosso prima, voglio dire, E così vale, valga anche per Zoppi Sim e anche per se fa commissionaria, insomma. Tu ne hai citato anche, ricostruendo questi casi, Stefano, anche un quarto caso, Cofeur Patrimonium. Che cosa aveva combinato questo? È interessante questa? Perché coinvolge un diverso organo di vigilanza, perché pochi sanno che sino a non molto tempo fa tutte le società fiduciarie erano sotto il controllo e la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, e quindi non della Consob, ma appunto dell'ex Ministero dell'Industria. E che cosa succede quindi? Che è il Ministero dell'Industria, ex Ministero dell'Industria, attualmente Sviluppo Economico, che dovrebbe fare le funzioni di vigilanza nei confronti di queste società. E nel caso di Cofeur Patrimonium c'è stato un crack, una società di Cento, in provincia di Ferrara, dei fratelli Melloni, che nel 94 è fallita, nel 94 ha provocato ingentissimi danni finanziari in quell'area e non soltanto in quell'area, ed è stata affidata alle cure di un commissario liquidatore di nomina del Ministero, che purtroppo è stato coinvolto in un episodio di malversazione. E anche in questo caso c'è stato un avvocato di Conegliano Veneto che è riuscito a citare in giudizio il commissario di liquidatore, che si chiama Lorenzo Zaccagnini, e da questo processo probabilmente si riuscirà a recuperare qualche cosa. Siamo riusciti a recuperare invece noi un ascoltatore che peraltro deve fare la sua domanda in tempi telegrafici. Sandro, dalla provincia di Massa Carrara, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, soltanto per sapere, io sono uno dei 3.000 creditori del fallimento SVA, in concreto, in pratica, cosa deve fare un creditore per poter sperare di ottenere qualche cosa da questa sentenza 6681? Grazie, grazie. Avvocato Santosuosso, mi aiuta lei allora a questo punto, che cosa si deve fare? Avvocato, mi sente? L'avvocato? Sì, avvocato, mi sente? Sì, eccomi. Che cosa deve fare Sandro a questo punto per poter entrare in possesso materiale di questo risarcimento stabilito dalla Cassazione? È uno dei creditori destinatari della sentenza? Sì, sì, certo, SFA. Attraverso la sentenza avvia il processo esecutivo e richiede quindi fa richiesta formale alla Consob di risarcimento pari alla somma che corrisponde al suo credito. Comunque, insomma, è meglio che Sandro non si aspetti nulla di automatico. Sicuramente non lo chiamerà la Consob per dirgli: guarda, siamo pronti con questo assegno, con questo accredito sul tuo conto corrente. È bene che si attivi con un legale preparato su questi argomenti. Allora, io devo già salutare appunto i nostri ospiti perché abbiamo terminato la nostra trasmissione, ma come appunto tutti quanti i giorni stiamo continuando ad andare avanti con la nostra rubrica destinata a chiarirvi un po' le idee sui temi del risparmio gestito, perché stiamo portandovi appunto sulla strada del Salone del Risparmio che si svolgerà a Milano la prossima settimana. Voi state continuando a chiamare il numero verde 828 1212, non è un numero verde, è una segreteria telefonica, ci lasciate le vostre domande e noi vi rispondiamo, sentiamo la pillola che abbiamo scelto oggi. Radio 24 e Assogestioni presentano Le domande del risparmio. Sì, buongiorno. Senta, io sento sempre parlare di benchmark come riferimento quando si vuole capire la performance di un fondo. Potete spiegarmi cos'è, per favore? Grazie. Il benchmark è un indice di mercato riferito che consente all'investitore di comprare le performance del proprio investimento con l'andamento del mercato stesso. Il gestore è obbligato per legge a indicare periodicamente il comportamento di un fondo rispetto a quello di un altro investimento che rifletta l'andamento generale del mercato. Esso è, in altre parole, l'avversario contro cui il fondo misura la sua forza. Il ruolo del benchmark è duplice. Serve come punto di riferimento per l'indicazione delle strategie e permette di giudicare la performance del portafoglio tramite un confronto con la performance del benchmark stesso. I fondi comuni di diritto italiano hanno l'obbligo di indicare il benchmark su tutta la documentazione rivolta al pubblico, prospetto informativo, rendicontazione e pubblicità, e di metterlo a confronto con l'andamento del fondo. Le domande del risparmio. Solamente per precisare un'ultima cosa relativamente all'ultimo ascoltatore che ha chiamato, Giovanni Negri, questo ascoltatore che chiedeva, visto che era rimasto coinvolto nel crack SFA, ma non era uno di quelli coinvolti appunto ci puoi spiegare esattamente? Sì, no, rapidissimamente, nel senso, credo che l'ascoltatore non sia direttamente interessato dalla sentenza, nel senso che non appartiene a quella pluralità di risparmiatori che ha fatto ricorso ed è arrivata fino in Cassazione, è interessato dal fallimento di questa intermediaria, ma non ha proposto l'azione. Ma la pronuncia se non ha fatto, allora lo interessa teoricamente, ma molto teoricamente, ahimè, perché se non si è mosso prima, io ho forti dubbi che il suo credito si sia già prescritto. Certo, anch'io. Quindi in sostanza praticamente il risarcimento spetterebbe solo a coloro che si sono attivati e grazie al cui lavoro si è arrivati alla sentenza della Cassazione. Ecco qua. Allora, grazie a Giovanni Negri, a Stefano Elli, all'avvocato Daniele Santosuosso. Stravadanaio torna domani. Che puntata faticosa. Buona giornata a tutti. A risentirci. Thank you.